Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. La data è quella del 1° luglio, da quel giorno per 26 milioni di famiglie italiane che ancora rientrano nel mercato a maggior tutela, l'energia elettrica non avrà più lo stesso costo in ogni momento della giornata. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Stasera parliamo della tariffa bioraria che verrà introdotta per tutti i clienti che insomma non hanno mai aderito al mercato libero. La tariffa bioraria risponde a un dato di fondo: l'energia elettrica costa più di giorno che di notte quando molte attività si fermano. È quindi corretto farla pagare un prezzo diverso. Così facendo si incentiva un uso più consapevole dell'energia elettrica. Questo significa però che dovremo mutare alcune abitudini. Ma è anche un'opportunità questa variazione nella tariffa. Facendo attenzione, infatti, potremo spendere significativamente meno di prima. Ne parliamo con Roberto Malaman, direttore generale dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che determina appunto i prezzi dell'energia elettrica applicati al mercato a maggior tutela. Buonasera Malaman. Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta. Allora, iniziamo a spiegare quindi come funzionerà questa tariffa bioraria. Sì, intanto diciamo che la tariffa bioraria già riguarda diciamo i consumatori di energia elettrica non domestici. Mm-hmm. Dal 1° luglio prossimo riguarderà anche le famiglie, quindi progressivamente i consumatori domestici avranno una tariffa differenziata. L'orario qual è in cui scattano le varie tariffe? Ricordiamoci la cosa più importante: nei giorni feriali l'energia costerà un po' di più dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Per il resto la tariffa è più bassa. Dopo le 7 di sera e tutti i festivi giorno e notte costerà un po' di meno. Ecco, ci sarà però una fase transitoria, cioè il passaggio non è, come dire, immediato, brusco. Dunque, intanto passeranno la tariffa bioraria una parte degli italiani, il fenomeno è progressivo. Quindi quegli italiani che stanno già ricevendo in bolletta due volte un avviso che gli spiega cosa starà succedendo, quindi quelli che hanno il contatore telegestito ben funzionante. E poi ci sarà un po' di progressività negli effetti economici, cioè per circa un anno e mezzo la differenza tra le ore cosiddette vuote e le ore cosiddette piene sarà una differenza di prezzo limitata. Più o meno? Quando l'energia costa di più, ricordo, dalle 8 di mattina alle 7 di sera nei giorni feriali, il prezzo sarà del 10% più alto rispetto alle altre ore della giornata. D'accordo, ecco, come dire, si comincia a risparmiare se si riescono a spostare nella fascia serale e nei weekend almeno il 67% dei propri consumi. C'è un modo per capire come si sta consumando energia prima che scatti questa nuova tariffa? Sì, intanto diciamo che mediamente una famiglia ha consumi di questo tipo, quindi non sta arrivando un aumento a sorpresa alle famiglie. Ma il modo per capire come sono i nostri consumi adesso è quello di aprire la bolletta. Già nelle bollette che stanno arrivando a chi avrà la tariffa bioraria c'è una tabellina in cui bisogna andare a guardare due numeri: quanto si consuma nelle ore F1, le ore in cui l'energia costa di più, e quanto si consuma nelle ore F23, le ore in cui l'energia costa di meno. F2, F3. Sì, per risparmiare con la nuova tariffa bioraria bisogna avere nelle ore a maggior costo, le cosiddette F1, non oltre un terzo dei consumi, il 33%. D'accordo. Quindi guardiamo questa tabellina che abbiamo già nelle bollette e verifichiamo come adesso la nostra ripartizione. E se per caso noi sforiamo questo 33%, dobbiamo spostare alcuni consumi la sera o nel weekend. Quali sono i consumi più importanti da questo punto di vista? Sì, intanto conviene a tutti cominciare a spostare i consumi dopo le ore 19 o nel fine settimana, qualunque sia la ripartizione dei consumi adesso. Certo. E i consumi che, ovviamente non tutti i consumi elettrici si possono spostare, ci mancherebbe, alcuni sono inamovibili nel tempo, e invece soprattutto gli elettrodomestici che scaldano, che sono quelli che consumano di più, quindi la lavatrice, la lavastoviglie, esatto, se si può anche il ferro da zio, il forno, certo, soprattutto lo scaldabagno, sì, che consuma molto, certo. È meglio mettere un piccolo accumulatore magari che tenga l'acqua calda per la giornata, certo, e produca il calore, certo, di sera. Se è indifferente, lo scaldabagno conviene accenderlo di sera e spegnerlo di giorno. Ecco, questi elettrodomestici in particolare converrà farli funzionare, se possibile, dopo le 7 di sera o nei festivi. Ecco, senta, comunque ci sono alcuni soggetti che magari da un lato fanno proprio fatica a cambiare abitudine, pensiamo agli anziani, insomma, che magari hanno questa difficoltà, anche le associazioni dei consumatori lo hanno fatto notare. Chi proprio non vuole cambiare i propri consumi, che cosa può fare? Comunque si beccherà sempre una tariffa bioraria? No, non è obbligatoria. La tariffa bioraria entra automaticamente in funzione per quei clienti che non scelgono la loro offerta sul cosiddetto mercato libero, cioè che non si scelgono un'offerta sul libero mercato dell'energia. Perché ci sono degli operatori che offrono ancora adesso dei contratti a tariffa monoraria. Certo, diciamo. E immagino continueranno a offrirli, quindi si potrà sempre scegliere sul mercato libero dell'energia elettrica un prezzo monorario, così come si può scegliere un prezzo a fronte di energia tutta rinnovabile, così come un prezzo fisso, così come un prezzo diciamo a stock di consumi. Senta, mi sembra importante spiegare perché c'è necessità di fare questa operazione. È solo una questione economica o c'è dietro anche qualche aspetto di tipo energetico globale? Guardi, la risposta è semplicissima, è che di giorno, nei giorni feriali, l'energia elettrica costa davvero di più, perché viene prodotta accendendo tutte le centrali, anche quelle meno efficienti, che peraltro spesso sono quelle che inquinano anche di più, e quindi il prezzo dell'energia elettrica è davvero più alto durante la giornata. Allora, se spostiamo un po' i consumi di sera, abbiamo bisogno di accendere meno centrali, facciamo funzionare quelle più efficienti, che sono quelle che costano meno, ma inquinano anche meno. Grazie Malaman. Grazie a voi. Bene, Mr. Kilowatt si chiude qui, domani parleremo di eolico, delle procedure autorizzative e di come, secondo le associazioni di categoria, si potrebbero evitare situazioni come quelle che sono balzate agli onori della cronaca in questi giorni. Buona serata.